511. Cotolette di baccalà. Si tratta sempre di baccalà, quindi non vi aspettate gran belle cose, però preparate in questa maniera sarà meno disprezzabile del precedente, non fosse altro vi lusingherà la vista col suo aspetto giallo dorato a somiglianza delle cotolette di vitella di latte. Cuocetelo lesso come l'antecedente e se la quantità fosse di grammi 500, dategli per compagnia due acciughe e un pizzico di prezzemolo, tritando fine fine ogni cosa insieme con la lunetta. Poi aggiungete qualche presa di pepe, un pugno di parmigiano grattato, tre o quattro cucchiaiate di pappa, composta di midolla di pane, acqua e burro, per renderlo più tenero, e due uova. Formato così il composto, prendetelo su a cucchiaiate, buttatelo nel pan grattato, schiacciatelo con le mani per dargli la forma di cotolette che intingerete nell'uovo sbattute e poi un'altra volta avvolgerete nel pan grattato. Friggetelo nell'olio e mandatelo in tavola con spicchi di limone o salsa di pomodoro. Basterà la metà di questa dose per 9 o 10 cotolette!